get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, quella che sta per iniziare la nostra 292esima trasmissione. Oggi qui in studio siamo Caterina che vi sta parlando e con me c'è Stefania. Buonasera. Ci abbiamo anche un ospite che vediamo se riusciamo nel corso della trasmissione a farla partecipare. Noi faremo di tutto, segnali di fumo, vabbè, vediamo. È molto timida, speriamo che riesca a sentirci e che riusciamo ad invogliarla a partecipare. Dunque, in scaletta per oggi abbiamo preparato uno special sulla prossima Lesbo Tombola che quest'anno festeggia la sua 10ª edizione. Poi ci collegheremo telefonicamente con Pina della Masseria Sant'Anna in Puglia, che però attualmente non sta in Puglia e per la verità neanche in masseria, però ci parlerà di un'iniziativa che stanno preparando e che ne siamo sicure anche voi riconoscerete come molto interessante. Ma non vogliamo anticiparvi niente altro perché il pacchetto che vi prepariamo questa sera è bello fornito, quindi partiamo subito con una canzone che vi possa dar modo di introdurvi piano piano nell'atmosfera festaiola delle lesbiche. Sì, perché è proprio di questo che vogliamo parlarvi. Cosa fanno le lesbiche durante le feste natalizie? Quindi lo scopriremo insieme e buon ascolto. Come prima canzone vi proponiamo un brano di Mariella Nava e Tosca insieme, che si intitola La differenza. Tuona tuona con il sole sopra un'amicizia amore. La dolcezza che vi muove, piano le carezze piove. Piove lacrime e veleno, dimmi amore dove andremo. E lei giura seno a seno, sotto un cielo agli altri osceno. Occhi dietro a una finestra, ma che storia disonesta, come un'ombra sulla vita, la terra trema inorridita, ma è una storia come tante, un corpo uguale a un altro amante, amarsi dentro ad un riflesso, toccarsi nello stesso sesso, maledetta l'apparenza. Dov'è la differenza? Sta forse nei particolari, ma l'anima non li ha più uguali, come le mani che le prenderai. Maledetta l'apparenza. Dov'è la di un dirupo, freddo rosso sul suo viso, hai paura all'improvviso. E paura tutti i giorni, delle infamie nei dintorni, e le giuri ventre a ventre, amore non mi importa niente. Al di là di una ringhiera, strada che non c'era, è un terreno più sconnesso, ma la vuoi, ma ti è successo, è una storia come tante, e già viverla è importante, e per me non è indecente amarmi in mezzo a tanta gente, maledetta l'apparenza, dov'è la differenza, forse un corpo con le ali per la festa dei normali. Questa sera tu non le vorrai, maledetta l'apparenza, dov'è la differenza, sta forse nei particolari, ma l'anima non li ha che uguali, come le mani che le scalano. Ed eccoci qui, allora, come dicevano loro, è una questione di particolari. Allora, dunque, mai come in questa occasione ci piace e ci diverte anche dare un po' i numeri, vero Stefania? Sì. Perché come vi abbiamo detto nell'incipit di questa trasmissione, il 14 dicembre ci sarà la Lesbo Tombola, decima edizione. Partiremo quindi spiegando questa sera il motivo in base al quale l'abbiamo chiamata proprio Lesbo Tombola. Dovete sapere che sul tabellone sono stati riportati per dichiarazioni esplicite, per sentito dire, per simpatia o semplicemente perché a noi lesbiche ci piacciono tanto, sono stati riportati, dicevo, volti di donne. Tutte e 90 le caselle, quindi, ospitano i visi sorridenti di donne che, in un modo o nell'altro, hanno a che fare col mondo lesbico. Beh, inutile dire che al numero uno non ci poteva che essere Saffo, ma questo è quasi scontato, direi. Ma stasera io e Stefania daremo appunto un po' i numeri. E siccome siamo in radio, siccome il CLR di norma fa ascoltare esclusivamente brani interpretati da donne, siccome molte delle facce riportate sul cartellone sono cantanti, andiamo ad elencare qualcuna di queste cantanti raccontandovi a grandi linee la loro storia. Allora cominciamo dal numero 9, perché mi va di cominciare dal 9, tutti cominciano dall'1, che è questa cosa, noi siamo cioè, è una questione di particolari, come dicevano Mariella Nava e quindi partiamo dal 9, perché ci sono le Indigo Girl. Stefania, vuoi raccontarci un po' chi sono? Certo, sono qui per questo. Le Indigo Girl sono una band femminista, lesbica e pacifista. Vengono da Decatur, nei dintorni di Atlanta, e hanno studiato nei college di quella Athens, che non sono in Georgia, è da anni una vera capitale del rock. Amiche sin dai tempi del college, Amy Ray ed Emily Sayers esplodono nell'89 1989, in pieno secondo revival del folk. Ecco, adesso le conosciamo un po' meglio, ma tu per esempio a questo punto, arrivato a questo momento storico della trasmissione, mi sai dire quanto fa 9 più 9? Non so se ci riesco, Dai, sforzati. Diciamo 18? Sì, fa 18. E sai perché era importante che tu dicessi il 18? Perché al numero 18 c'è la cantante preferita di Rosina. Sto parlando di Joan Baez. Oddio, Rosina dice che anche lei si è esibita in una canzone quasi lesbica. In verità non saprei dire se è vero o no, o se è una libera interpretazione di Rosina, ma le piace così tanto che nessuna di noi si è mai azzardata a contraddirla. Di sicuro però Joan Baez è un personaggio di tutto rispetto, ce la vuoi presentare? Certo, allora, è nata a New York nel 1941, Per più di 40 anni la Madonna Scalza ha portato la sua voce in tutto il mondo come espressione dell'impegno politico, della non violenza, della lotta antirazzista, dell'antimilitarismo e per l'affermazione dei diritti umani. Considerata la più grande cantante americana folk revival. E secondo te chi non poteva mancare fra le cantanti della Lesbo Tombola? È stata una icona per le donne della mia generazione, ahimè, continua ad esserlo anche oggi, visto che la sua voce graffiante è intramontabile. Vediamo se indovini, sto parlando di... Ma non saprei, è per caso senese? Il suo genere musicale è il rock? Ti stai avvicinando. Allora, è Gianna Nannini? Vai! Ma anche questo era scontato, quasi come Saffo. Certo, certo, ognuna nella sua categoria, per carità. Ricordo, un mio ricordo di gioventù, che andavamo in processione a Siena con tre amiche lesbiche. Figurati, chissà come mai proprio a Siena. Chissà come mai. Ma come non nominare allora le Kick La Luna? Le abbiamo posizionate al numero 26. Le Kick sono una band tedesca fondata nel 1992. È composta da Elke Volz, scusate la pronuncia, alla chitarra, Ulrich Pfeiffer al basso e percussioni, Jutta Keller alla chitarra e alle percussioni, Ann Bricker. Hanno alle spalle molti anni di carriera e sono tra le band più amate dalle lesbiche. Anche noi spesso l'abbiamo fatta ascoltare, chissà, magari pure stasera. Cercheremo di mandarla in onda, si sa che il tempo quando si fanno queste trasmissioni è sempre tiranno. E allora, se la metti su questo piano nominando le Kick La Luna, perché non parlare del numero 80? Tanita Tikaram è un'altra lesbica dichiarata che nasce nel 1969 a Münster in Germania da padre indiano Fiji e madre nativa del Borneo. Tanita si trasferisce sin da ragazza a Basingstoke in Inghilterra e diventa in fretta un personaggio famoso nella scena musicale internazionale, riscuotendo un buon successo anche in Italia. Alcuni dei suoi brani più famosi sono senza dubbio Good Tradition e Twisted in My Sobriety dal CD Ancient, come si dice? Non saprei. Va bene, dell'88, ma la sua produzione discografica spazia dall'88 al 2005. Dopodiché non mi risulta che sia stato pubblicato altro da Tanita. A me piace anche molto la versione di E penso a te fatta da lei. Non so se poi avremo tempo, eventualmente metteremo anche questo, facciamo una trasmissione musicale questa sera. E allora andiamo direttamente al numero 32. Lì troviamo Katie Lang. Ah beh. Come non pensare al brano Miss Kathleen? Anche questo andrebbe ascoltato. Ma leggiamo qualcosa anche su di lei. Katie Lang nasce a Edmont. All'età di 9 anni si trasferisce con la famiglia in Canada nel 1961. Cantante country, ma la sua musica è sempre al limite fra i generi e sempre un passo oltre. Noto soprattutto per il disco Ingenue e per aver recitato nel film Salmberry a piedi nudi nella neve, per il quale firma anche la colonna sonora. Ha dichiarato pubblicamente il proprio lesbismo praticamente da subito. La sua discografia parte dal 1984 fino al 2011, ma non sappiamo se poi ha continuato come autrice magari di altre colonne sonore. Brava Stefania, vedo che sei preparata, hai studiato. Cosa sì, vogliamo dire allora nel numero 5? Non sto pensando proprio al famoso profumo numero 5 che Marilyn Monroe si metteva tre gocce nuda prima di andare a letto. Non è quello, volevo dire della numero 5, perché sto parlando sempre della Lesbo Tombola. Al numero 5 c'è Ma Rainey. E chi è costei? Qualche indicazione. Gertrude Pridgett, questo è il suo vero nome, nacque il 26 aprile del 1886 a Columbus in Georgia ed oggi è nota ai più come la madre del blues. Non ha mai negato la sua preferenza per le donne, come ha fatto nella canzone It on Me, di cui qui riportiamo alcuni passaggi. Ieri sera ho avuto una grande battaglia. tutto sembrava andare storto. Alzai gli occhi e, con mia sorpresa, la ragazza che era con me scomparve. Non so dove andava. Intendo seguirla ovunque vada. La gente dice che sono storta, ma io voglio che il mondo sappia. Certo, ho avuto modo di provarlo su di me. Ieri sera siamo andati con una folla di amici, ma dovevano essere devono essere state tutte donne, perché non mi piace nessun uomo. Fu arrestata a Chicago con l'accusa di aver organizzato un party indecente, essendo stata sorpresa in una camera in compagnia di donne nude in situazioni intime. Fu fatta uscire da un'amica e da Bessie Smith, con la quale si vociferava avesse una relazione. E cara Stefania, a questo punto, secondo te, cosa possiamo mandare in onda adesso? Mandiamo a questa splendida interprete di blues, ascoltando proprio il brano Prove Into Me. Great big fight, everything seems to go wrong. I looked up, to my surprise, the girl I was with was gone. Where she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Folks said I'm crooked, I didn't know where she took it. I want the whole world to know. This day I do it. Ain't nobody caught me. You got to prove it on me. When I was last night with a crowd of my friends, there must have been women, cause I don't like no men. It's true, I wear color and a tie. Make the wind blow all the while. But to say I do it, ain't nobody caught me. They sure got to prove it on me. Bene, eccoci di nuovo qui. Abbiamo citato molte cantanti presenti nella nostra Lesbotombola, ma sicuramente se ne possono trovare tante altre, tipo, non so, Annie DiFranco, Tracy Chapman, le Tattoo, queste sono un pochettino più recenti, Janis Joplin, Billie Holiday, Menchende Geosillo, Joan Armatrading, Melissa Etheridge, anche lei lesbica dichiarata e a me molto gradita, infatti penso che dopo metterò una sua canzone. Ho il potere in mano, stando al mixer faccio quello che voglio e manderò Melissa Etheridge. Però noi del CLR non siamo del tutto esterofili, infatti nella nostra Lesbotombola non c'è soltanto la Nannini ma anche altre cantanti nostrane. e qui però noi non ci esprimiamo e non le classifichiamo, perché nessuna di queste ha mai fatto coming out, o forse non lo deve fare proprio perché non è proprio lesbica, e noi di certo non appiccichiamo etichette. Di sicuro però molte di queste vengono ascoltate moltissimo da noi lesbiche, e questo fa sì che alcune di loro siano diventate col tempo un po' come, sai, Raffaella Carrà per i gay, no? Che è una vera icona, ecco, proprio così. Sì, Caterina ha ragione. Troviamo Caterina Caselli, appunto Caterina, appunto. Geraldina Trovato, Teresa De Sio, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli e Paola Turci. Sono sicuramente icone lesbiche, e l'essere individuate come tali non può essere considerata un'offesa. Ma parliamo un po' di cosa c'è in palio nella nostra lesbotombola. Come tutte le tombole che si rispettino, abbiamo un ambo, un terno, una quaterna, una cinquina e la tombola. Ma Stefania, questo accade in tutte le tombole, ci vuoi svelare qualche segreto in più? Non ci penso minimamente, altrimenti si rovina la sorpresa. Ah, va bene, va bene. Dirò soltanto che come CLR, per festeggiare questa 10ª edizione, offriremo un gadget a tutte le donne che parteciperanno alla tombola, ed avremo un ospite eccezionale. Dopo la tombola e dopo l'ospite ci sarà una nuova occasione per portare a casa ancora un altro regalo, senza contare che come ogni anno ci sarà la cena di finanziamento, il cui intero ricavato verrà reinvestito nelle nostre iniziative. Poi, per chiudere in bellezza, alla fine si balla. Che si può dire di più? Niente, possiamo soltanto dire che vi aspettiamo sabato 14 dicembre a partire dalle ore 21, e quindi venite in tante, da sole, accompagnate, quello che volete, venite come pare, basta che venite. E io faccio soltanto un'ultima precisazione, avrei dovuto farlo un po' prima, ma si sa che il tempo è tiranno, quindi vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.9 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Alcune indicazioni per contattarci: qui in radio fino alle ore 22 allo 06 49 17 50 o con un SMS al numero 339 85 36270, con una email a contatti@clrbp.it, oppure visitando la nostra pagina di Facebook CLR Donna e il nostro sito www.clrbp.it. Allora, come avevo detto, io ho in mano i comandi stando al mixer, quindi ascoltiamo un'altra canzone che ci permetterà di telefonare nel frattempo a Pina. Così ci darà delle altre informazioni molto interessanti, e come avevo promesso metto Melissa Etheridge con un brano spettacolare secondo me, che si intitola Your Little Secret. Chissà che piccolo segreto sarà. Chissà. Just like you, you move when she's not looking, baby. One sugar ain't enough for you, but you're taking out your loans, you're burying your bones before your colors blow. You better take it home. Swift slowly fading like your charm. But you're stepping out of line, you're spilling all the wine, leaving on the vine, 'cause I can't give you mine. I like the way you look, I know you like me, but Madonna, ecco la morte nel cuore che sfumo, Melissa Etheridge. Allora, se ho fatto tutti i passaggi giusti, ci dovrebbe stare in diretta con noi Pina. Ci sei, Pina? Ci sono. Ci vai, sono un mostro. Brava, brava. Ottimo, ottimo. Allora, un minimo di autopresentazione te la vuoi fare o ci pensiamo noi? Che cosa preferisci? No, ci pensi tu, dai. Va bene, allora, a parte... Poi aggiungo. Va bene, allora, Pina intanto è una compagna che amo moltissimo, primo. Secondo, ha delle radici che si perdono in un gruppo che noi del CLR abbiamo amato tantissimo. Da questo gruppo sono nate diverse derivazioni, una di queste è lo sviluppo di una forma di imprenditoria femminile che è quella della Masseria Sant'Anna, che organizza sempre delle cose molto molto carine, ti chiederemo di parlarcene e niente, io passo a questo punto. Tu vuoi aggiungere qualche altra cosa che pensi sia necessario, importante? Sì. Dimmi, sì. Vai, è allora, tutto tuo. Il gruppo, diciamo, da cui provengo, che tu, insomma, tutte le donne del CLR amano tanto, è l'associazione Desiderande. Esatto. Che è un'associazione storica barese nata nel 1991, per cui insomma ha veramente delle radici che ormai sono più che ventennali. Questo gruppo ha, diciamo, lavorato sul territorio barese, pugliese, nazionale, all'interno dell'area dei gruppi separatisti, e da questa associazione, che al momento, diciamo, è in pausa dopo 20 anni, sono nati una serie di progetti ed esperienze molto interessanti, nel senso che le donne che poi vi hanno fatto parte e vi fanno tuttora parte hanno poi preso anche delle strade differenti, e una di queste è stata proprio questo progetto di imprenditoria femminile che è costituito poi dalla Masseria Sant'Anna. La Masseria, sì, Sant'Anna è una bellissima masseria in Puglia, tra vicino Alberobello, dove alcune di noi, insomma, che abbiamo preso in gestione da oramai 10 anni, e dove organizziamo, è un bed and breakfast fondamentalmente, mm-hmm, ma all'interno del quale poi organizziamo una serie di eventi, e una parte dei quali sono rivolti esclusivamente alle donne. Sì. In particolare poi abbiamo portato avanti uno dei progetti dell'associazione Desiderande, che era quella di organizzare la settimana lesbica appunto, mm-hmm, in masseria, e quindi abbiamo mantenuto questa tradizione. Infatti ogni estate ad agosto organizziamo l'oramai, diciamo, anche quest'anno si rifarà. L'abbiamo fatta nel 2013, ad agosto del 2013, il prossimo anno sì, rifaremo la prima settimana di agosto, l'abbiamo già messa in programmazione, quindi ci sarà questa. Sì, io confermo che la settimana è una cosa bellissima, che chi non l'ha fatta la deve provare. E per dare l'opportunità alle donne di partecipare, di prenotarsi, ci vuoi dare qualche indicazione rispetto a questo? Certo, per quest'estate, la prossima estate, allora potete in primo luogo contattarmi, perché poi sono io quella che gestisce, insomma, un po' la comunicazione, le prenotazioni per la masseria, contattarmi via mail ad info@masseriasant'anna.it, okay, oppure telefonicamente al 333. Però aspetta, facciamo che il telefono è meglio non darlo per radio, tanto se ti va di ripetere l'indirizzo mail è meglio. Sì, poi casomai chi fosse interessata può scrivere a noi e noi giriamo il telefono. Facciamo così. Sì, comunque è un numero di telefono, diciamo, pubblico, che utilizzo proprio allora sì, scusa, no, pensavo fosse proprio il tuo. Ah, ok, allora no, perfetto. No, io allora lo puoi dare, tranquillo. Sì, certo. Allora, stavo dicendo, quindi la mail la ripeto, così è info@masseriasant'anna.it. Abbiamo un sito che è il www.masseriasant'anna.it, un profilo Facebook che è sempre Masseria Sant'Anna, e poi tutti i recapiti telefonici li troverete. Sono rintracciabili qui. Sì, assolutamente. Ok. Senti, però io ti interrompo soltanto per dire una cosa, che noi abbiamo cominciato questa trasmissione dicendo che volevamo far sapere che cosa fanno le lesbiche durante le vacanze di Natale, e noi invece adesso stiamo parlando dell'estate, che sicuramente io so, perché mi è stato riferito, che voi state facendo una cosa che andate un po' in trasferta, se non sbaglio, certo. Giusto, se ci vuoi illuminare. Non sarà più masserina e mid-estate, praticamente, esatto. Giusto? Sì, sì. È un capodanno, vero? A capodanno, noi quest'anno, allora, normalmente negli anni passati, sono 10 anni che abbiamo organizziamo, oltre che la settimana lesbica estiva, anche il capodanno da noi in masseria. Quest'anno però abbiamo deciso di fare una cosa completamente diversa per noi, cioè quella di mettere a riposo per un attimino Masseria Sant'Anna e andare a trovare una nostra amica che quest'anno ha preso un bellissimo agriturismo in Romagna. Wow. L'agriturismo si chiama l'agriturismo La Cerreta, e la persona in questione è una donna che voi conoscete benissimo, è la Lorena. Madonna, che è la nostra mitica cuoca della masseria. Bene, allora, i nostri lei sensi questo, le conoscono molto, esattamente, bene. Lei quest'anno, proprio nel 2013, ha preso questo agriturismo e diciamo, quindi ha questa nuova gestione di questo posto molto bello vicino Rocca San Casciano, che è a una 30 chilometri da Forlì, e quindi quest'anno abbiamo deciso di trasferirci tutte da lei e organizzare da lei la settimana lesbica, non in masseria ma in agriturismo. L'organizzazione è tutta barese, nel senso che proprio stiamo andando in tournée, e in particolare poi in questa cosa abbiamo coinvolto noi, anche una nostra amica barese che adesso vive a Bologna, che è Anna Maria Palumbo, di Arcilesbica, che sta con noi collaborando per, insomma, organizzare questa bellissima settimana in Romagna, che dove, diciamo, la location è differente, ma lo spirito è esattamente lo stesso. Di ma quello il clima che sarà sicuramente lo uguale, stesso. No, sì, sì, perché proprio stiamo proprio portando come delle da brave meridionali tutto quello che è tutto proprio il nostro bagaglio, la strumentazione, la DJ. Grande. Di tutto stiamo portando in Romagna, e quindi abbiamo fatto questo divertente esperimento anche per insomma far conoscere questo posto di Lorena, insomma, certo, era bello quest'anno fare questa cosa lì da lei, certo, d'altra e parte, quindi io vi invito a venirci perché ovviamente se ci vuoi dare esatto qualche informazione diciamo pratica pratica allora per quanto riguarda la sì, noi abbiamo organizzato una settimana di vacanza, anche se comunque è possibile anche fare dei giorni più cioè pernottare o comunque fermarsi per meno giorni. Mm-hmm. Il periodo è dal 29 dicembre al 5 gennaio. Mm-hmm. Il posto, il luogo è questo agriturismo chiamato La Cerreta, vicino a Rocca San Casciano, che è a 30 km da Forlì. Mm-hmm. Il costo dell'intera settimana è di 420 euro, che comprende mezza pensione, comprensivo poi della cena di fine anno, della festa, delle animazioni, mm-hmm. dello spettacolo teatrale, di tutta una serie di cose che insomma abbiamo previsto in questa settimana. Mm-hmm. È possibile, come dicevo, prenotarsi sia per l'intera settimana che per i giorni più brevi, esatto, o venire anche semplicemente solo per il cenone, per la festa. Ah. L'agriturismo ha a disposizione 30 posti. Mm-hmm. E in più abbiamo una convenzione con un albergo a 2 chilometri dall'agriturismo per tutte quelle donne che non avranno la fortuna di prenotare in tempo e che quindi dovranno alloggiare a fianco. Senti, ma c'è ancora qualche posticino? Ci si può ancora aggregare? Sì, esattamente sì. Sia per la settimana che per il cenone c'è ancora posto, non sono moltissimi, per cui insomma per chi dovesse essere interessata affrettatevi, anche perché ne vale la pena. Confermo confermo in tutto. Va bene. Io qualche altra informazione? No, è soltanto un riferimento su come possono prenotare eventualmente. Sì. I riferimenti sono gli stessi che hai dato prima, attraverso gli stessi canali, o ce ne sono altri? No, ce ne sono altri. Ecco, la settimana di darli. Mail, sì, la mail è info per capodanno @gmail.com. Mm-hmm. E c'è un recapito telefonico che è il 333 64 16 863. Ok, va bene, d'accordo. Comunque per chi volesse riascoltare tutti i particolari, noi da domani, massimo dopodomani, metteremo sul nostro sito, caricheremo questa trasmissione nella quale sarà possibile riascoltare tutte le indicazioni. E io ho una proposta da fare a tutte quelle che ci ascoltano, che prima vengono alla lesbotombola da noi e poi andiamo tutte a Capodanno. Certo. Facciamo così. Un bel tour. Mi sembra un'ottima fine, no? Che mi sembra proprio il massimo. Ok, Pina, noi ti ringraziamo di aver partecipato alla nostra trasmissione e cogliamo l'occasione di fare a te e a tutte le compagne tanti auguri. Passate veramente una settimana bellissima, come è solito che accada quando ci siete voi in mezzo, e quindi ci sentiamo presto e ci vediamo presto, d'accordo? Va bene, grazie ma mille, figurati, a voi per questa un abbraccio. Ciao, opportunità. Ciao. Bella, ciao, vi aspettiamo, eh? D'accordo, ciao. D'accordo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ottimo, un programma di fine anno che secondo me va benissimo. Poi voglio dire, c'è anche il rischio che magari alla lesbotombola vincete delle terme, per esempio, per cui vi rilassate prima di andare a questa meravigliosa festa di Capodanno, no? Ecco. Va bene, abbiamo degli ottimi propositi di fine anno. Io a questo punto metterei un'altra cantante dalla voce stupenda, sulle note di questa canzone il CLR vi saluta, vi dà appuntamento intanto a sabato per la lesbotombola e poi a Capodanno per vicino Forlì. Sì. Ecco, e niente, No, mi sta facendo di no, ma non vuole parlare. Comunque abbiamo un ospite, abbiamo un ospite silenziosa, ma abbiamo un ospite, giuro. E quindi va bene, a questo punto sentiamo Tanita Tikaram. Sì, Tanita Tikaram. No, Tanita Tikaram, no. No, voglio sentire, chi voglio sentire? L'abbiamo nominata prima, Tracy Chapman. Ah, sì. Ecco. Baby, ti posso sostenere. Eccola, sta arrivando. Sorry. Forgive me. Forgive me. But you can say, baby. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.